Euroreportage. Puliamo l'aria. Adesso tocca a noi. Di Angelo Miotto e Cristian Elia. Clean air, it's your move. E questo è lo slogan scelto per il 2013 dall'Unione Europea per la settimana della mobilità sostenibile che si svolgerà nei 28 Paesi membri dal 16 al 22 di settembre. Traffico, inquinamento e ruolo attivo del cittadino che può influire sulla qualità dell'aria e quindi della sua vita, di quella di tutti, attraverso singoli comportamenti. I believe that everyone has the power to change the world we live in. It's mainly about making small steps that go in the right direction. Questa che sentite è la voce del commissario all'ambiente, Janez Potocnik, che ci ricorda come il traffico nei trasporti rappresenti un quarto del consumo totale di energia e la più grande causa di inquinamento nel mondo. Sul sito dedicato www.mobilityweek.eu trovate tutte le informazioni e un counter. Ci dice che già 156 città dell'Unione hanno aderito all'iniziativa e che anche dalla Cina è venuto un gesto di gemellaggio che oggi riguarda 152 centri urbani. Evelina Jelenkowska-Luca è a capo del settore stampa e media dell'Ufficio Italiano della Commissione Europea. Ci spiega così l'impegno preso dalla Commissione. Settimana Europea della Mobilità Sostenibile rappresenta un'occasione per i comuni, per le istituzioni, per le organizzazioni, le associazioni di tutta Europa per promuovere obiettivi come incremento di forme di mobilità sostenibile e della qualità di vita in generale. Ogni anno, ogni settimana ha un suo slogan. Quest'anno lo slogan è Aria pulita, ora tocca a te. E quindi attorno a questo slogan ogni ente locale che vorrà partecipare, che si vorrà registrare, dovrà organizzare tutta una serie di appuntamenti e azioni per promuovere questa iniziativa. In più, gli enti che si registreranno potranno anche concorrere al premio ufficiale della Settimana Europea della Mobilità. Siamo a Cascina Rosa, a Milano, zona Lambrate, dove c'è l'ufficio di Vittorio Krog, epidemiologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha terminato da poco un interessante studio sull'inquinamento atmosferico insieme ad altri centri europei. Escape è un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea che ha come scopo quello di studiare l'influenza dell'inquinamento ambientale sulla salute. Quindi hanno partecipato a questo progetto più di 300.000 soggetti distribuiti in questi nuovi paesi. In questo studio in ogni modo il PM10, che è quello che è il risultato più associato al tumore al polmone, soprattutto nella sua forma dell'adenocarcinoma, il particolato, cioè questo famoso PM10, che sarebbero queste piccole particelle più piccole di 10 micron, al di sotto di 10 micron, che riescono, data la loro dimensione, durante la respirazione a penetrare più profondamente nel polmone. In questo studio quello che si è visto è che non c'è un livello soglia. Un livello soglia è spesso, come capita nella legislazione, è un livello di comodo, cioè un compromesso. Il problema è che questo famoso livello soglia, che per il PM10 è 40, è molto, ma molto frequentemente superato. Quindi oltre a trovarci a un livello che in ogni caso è a rischio, perché il rischio è lineare, man mano che aumenta il PM10 aumenta il rischio. Per ogni 10 microgrammi di particolato in un metro cubo il rischio aumenta del 22%, pur trovandosi al di sotto del livello soglia dei 40. Logicamente se ci troviamo poi con 80 rispetto a stare di sotto il rischio in proporzione aumenta. L'impegno sui temi dell'inquinamento ambientale non possono fermarsi solo alla settimana di sensibilizzazione, riguardano pratiche quotidiane per la salute dell'essere umano. Pier Antonio Panzeri, dei Socialisti Europei. Avendo costruito un modello di sviluppo, particolarmente in Italia, fondato sul trasporto su gomma, inevitabilmente intorno a questo trasporto su gomma si sono creati interessi, si è creata occupazione, si sono creati ovviamente un habitat economico e sociale di un certo tipo, ma io penso, noi pensiamo che sostanzialmente questi conflitti che pure sussistono hanno bisogno di essere equilibrati e moderati, perché il passaggio, seppur graduale, che deve essere fatto è un passaggio che comunque compenserà alla fine e darà maggiori frutti dal punto di vista della ricerca ambientale, e anche in questo settore si potranno creare posti di lavoro. Quindi io credo che occorra costruire un grande tavolo nazionale e locale per realizzare questi obiettivi e avere una lungimiranza. Un esempio di nuove politiche per una sostenibilità ambientale che migliori le condizioni di vita dei singoli viene da Milano, con la lotta sull'area C, progetti di bike sharing e il varo del piano urbano di mobilità sostenibile, che vuole moltiplicare l'offerta per mettere a disposizione sempre più scelte di mobilità sostenibile a Milano. Abbiamo intervistato l'assessore alla mobilità e ambiente del comune, Pierfrancesco Maran. Quando parliamo di traffico, quando parliamo di inquinamento, spesso ci troviamo di fronte a delle azioni che non hanno poi risultati verificabili. Il fatto che invece una città come la nostra in 2 anni abbia ridotto così drasticamente il traffico, meno 30% in centro, meno 7% su tutta la città, è un segnale importante sia per i nostri cittadini, ma forse anche per altre città, perché dimostra che dei risultati si possono ottenere anche in un tempo abbastanza breve. E in Italia c'è un tasso di motorizzazione altissimo, una tradizione che identifica il concetto di libertà con l'automobile. Però questo non accade solo in Italia, pensiamo al fatto che anche nella servitissima dei mezzi pubblici di Parigi, quando c'è stata la pedonalizzazione del lungo Senna, vi sono state cortei di automobilisti contrari. C'è da dire che tutte le grandi città europee ormai hanno una strada chiara individuata che va verso la mobilità sostenibile. Se uno alza lo zoom e guarda quello che è accaduto negli ultimi 10-20 anni in tutte le grandi città europee, trova che alla fine una linea di obiettivi e di risultati ottenuti effettiva c'è in quasi tutte le grandi città, comprese anche quelle italiane. Il tema in Italia del trasporto pubblico riguarda soprattutto le modalità di finanziamento. In tutta Europa il trasporto pubblico viene pagato dai cittadini, dai passeggeri, solo per circa metà. In Italia noi abbiamo un sistema nazionale che distribuisce le risorse sulla base di quante venivano date in passato, riducendole di anno in anno, e questo sistema crea delle forti disparità, dove ci sono delle parti del paese dove praticamente il contributo dato da chi paga il biglietto è solo del 10% del costo del servizio, e delle altre, come Milano, dove il contributo dello Stato si è ridotto invece a solo il 40%. Questo oggettivamente non è tollerabile, crea una distanza tra la qualità dei servizi offerti e il modo in cui interviene lo Stato, e se parliamo per i comuni, lascia i comuni da soli nudi di fronte alle proteste dei cittadini per delle scelte su cui ha poca capacità di influenzare. Torniamo da Vittorio Krog. Se fosse un amministratore locale, non un epidemiologo, quali potrebbero essere le prime misure da prendere in chiave antinquinamento? Un primo provvedimento è quello di il cambiamento del riscaldamento dal gasolio a metano. Un'incentivazione per i condomini che cambiano questo è una politica che mi aspetterei. La seconda potrebbe essere è quella appunto di favorire il trasporto pubblico che sia e sfavorire quello privato, soprattutto nelle aree ad alta concentrazione, a densità di popolazione. Cui anche politiche che ne diminuiscono un poco, in ogni caso sono sempre efficaci, diminuiscono il rischio. Per cui anche se il passare da 35 a 25 nella concentrazione ci diminuisce il rischio del 22%. Per cui qualsiasi politica che tende a diminuire l'esposizione all'inquinamento ambientale è efficace. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.